2024 di Enrico Pagliarini. Sono molti gli argomenti che abbiamo selezionato questa settimana, quindi abbiamo una ricchissima puntata in questo weekend pasquale in cui dobbiamo rimanere tappati in casa, e magari questa può essere una buona occasione per riascoltare anche vecchie puntate di 2024 andando sul nostro sito internet radio24.it. Scegliete e selezionate un argomento anche di qualche mese fa, magari vi siete persi qualche puntata. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre vi ricordo che abbiamo una super edizione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica con una breve replica alle 13:10. Potete contattarmi scrivendo a 2024@radio24.it, oppure potete scegliere Facebook, LinkedIn o Twitter cercando 2024 Enrico Pagliarini. Iniziamo come sempre da alcune notizie, e devo dire che questa è stata una settimana particolarmente ricca di novità. Digital News. Partendo da un nuovo servizio che è disponibile anche in Italia, si tratta di un servizio di streaming video molto particolare, sicuramente figlio di questi tempi. Allora, si chiama Quibi, è scritto con la Q davanti, Quibi, video di massimo 10 minuti disponibili solo per smartphone. Al momento solo in lingua inglese, il servizio è gratuito per 3 mesi, poi costa $5 con la pubblicità o $8 senza pubblicità ogni mese. Quindi non costa pochissimo, però vedremo la risposta del pubblico. Questa è una startup che ha raccolto finora $1.8 miliardi. Hanno investito circa 1 miliardo per la produzione di contenuti, perché parliamo di contenuti a livello di Hollywood. È stata fondata da 2 manager veterani che hanno passato molto tempo in grandi aziende, Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman, e punta ovviamente ad un pubblico molto giovane. Sono 2 manager non giovani che però pensano che possa essere un successo questo servizio di streaming dedicato solo ed esclusivamente agli smartphone. A proposito di servizi in streaming, la Walt Disney ha annunciato che il nuovo servizio di streaming video Disney Plus ha raggiunto i 50 milioni di abbonati a livello globale, un vero e proprio successo. Poi ovviamente questo è il primo anno, sono partiti con delle promozioni, poi vedremo nel proseguo del tempo. Ricordiamo che questo servizio è attivo da 5 mesi negli Stati Uniti e da 2 settimane in Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Italia, Spagna, Austria e Svizzera. Dalla scorsa settimana anche in India e dal 7 aprile anche in Francia. Giusto per avere un paragone, Netflix ha 167 milioni di utenti in tutto il mondo. E questi in poco tempo ne hanno già 50. Però appunto bisognerà aspettare un po'. Secondo Counterpoint Research, il mercato della musica in streaming a pagamento è cresciuto nel 2019 del 32%, raggiungendo quota 358 milioni di abbonati in tutto il mondo. Il 35% del mercato è in mano a Spotify, il secondo player è Apple Music che sale al 19% per numero di abbonati, terzo posto per Amazon Music con il 15% degli abbonati. L'antitrust francese ha stabilito che Google dovrà pagare gli editori per l'uso dei loro contenuti, quindi delle notizie. Erano stati gli editori che si erano rivolti all'autorità in base alle attuali leggi francesi. Ora vedremo che forma prenderà questa trattativa. Devo dire che Google, secondo le prime affermazioni, ha dichiarato che vuole trovare un accordo. Quindi non andrà a finire, almeno in base alle intenzioni, come in Spagna, dove c'è stato un muro contro muro tra Google e gli editori, e Google News ad esempio non esiste in Spagna. Continuano i problemi di sicurezza di Zoom. La questione è stata presa sul serio negli Stati Uniti e si allunga la lista di aziende e istituzioni che hanno deciso di abbandonare la piattaforma o di chiedere ai propri membri, come ha fatto ad esempio il Senato americano, di non usare questo sistema di videoconferenza. Google, SpaceX, il distretto scolastico di New York sono gli ultimi ad avere deciso di abbandonare Zoom. Anche Taiwan e la Germania hanno diffuso alcune raccomandazioni per non usare Zoom. Uno dei fenomeni che ha fatto innalzare l'allarme è il cosiddetto Zoom bombing o Zoom bombing, quando sconosciuti irrompono nella sessione di videoconferenza. È successo anche a insegnanti scolastiche che ci hanno contattato per raccontarci questa storia. Un'altra questione è che Zoom, pur essendo americana, usa server cinesi e questi anni non sono sicuramente molto positivi per questo tipo di contrapposizioni. L'amministratore delegato e fondatore Eric Yuan, che è un cinese che si è trasferito in California negli anni 90, ha ammesso che i problemi ci sono e che cercheranno di risolverli, e ha preso come consulente Alex Stamos, che era il capo della sicurezza in Facebook. I problemi di sicurezza sono esplosi mentre Zoom è passato da 10 milioni di utenti in dicembre a circa 200 milioni attuali. Magari adesso qualcuno in meno, visto che molti si stanno staccando da questa piattaforma. La competizione dei sistemi di videoconferenza ha spinto Microsoft a rendere più semplice l'invito di nuovi utenti in Skype. Ora è possibile creare un link che gli invitati possono semplicemente cliccare e avviare una comunicazione senza dover scaricare il programma o l'applicazione, quindi anche senza avere un account Skype. Da questo punto di vista molto interessante il software open source Jitsi, con la J iniziale, Jitsi, molto bello, fatto molto bene, che non richiede nessun tipo di autenticazione. Problemi di cyber security. La catena di hotel Marriott International ha annunciato di avere subito un attacco informatico che ha compromesso i dati di 5,2 milioni di utenti. È la seconda volta in meno di due anni che l'azienda subisce una violazione di questo genere. Nel novembre del 2018 la precedente violazione aveva interessato 500 milioni di clienti, mica 5 milioni. Pare che in questo caso per entrare nei sistemi siano state usate le credenziali di accesso di due dipendenti di un hotel. Cyber MDX, che è una società israelo-americana che sviluppa sistemi di sicurezza per il mondo della sanità, ha raccolto 20 milioni di dollari, che fanno salire i capitali raccolti da questa startup finora a 30 milioni. Fra le aziende che hanno investito c'è anche un'assicurazione francese, che è la Cham, che si occupa proprio di sanità. I dati, a proposito di cyber security, i dati di 600.000 utenti di email.it, che è un servizio di posta elettronica italiano, sono stati venduti nel dark web da un gruppo di hacker che aveva bucato i sistemi dell'azienda due anni fa. Secondo il sito internet ZDNet, gli hacker avevano contattato email.it, che pare abbia ignorato il problema e non abbia avvisato i propri utenti. Il 1 febbraio gli hacker si sono rifatti vivi, era stato chiesto un riscatto ma l'azienda ha preferito non pagare, e direi ha fatto bene, si è rivolta alla polizia postale italiana. Magari avrebbe dovuto avvisare gli utenti di quello che era successo. Mentre Starlink, la società di Elon Musk che sta costruendo una delle più estese costellazioni di satelliti per connettersi ad internet, si prepara a lanciare la prossima settimana altri 60 satelliti che si vanno ad aggiungere ai 362 già in orbita. Allora, mentre accade tutto ciò, ricordiamo che in questa prima fase Starlink vuole raggiungere i 1500 satelliti, ma l'obiettivo, diciamo, di medio periodo è di arrivare addirittura a 12.000 satelliti. Comunque, mentre accade tutto ciò, registriamo invece il fallimento di OneWeb. Più precisamente, OneWeb ha fatto ricorso al famoso Chapter 11, che è simile al nostro concordato preventivo. La società aveva lanciato finora 74 satelliti e l'obiettivo era di lanciarne 650. Per fare appunto una costellazione di satelliti, sempre per connettere le persone ad internet. Ma dopo aver raccolto circa 3,6 miliardi di dollari, ne stava cercando altri due, che però nessuno ha voluto versare. Entro il 15 aprile, quindi la prossima settimana, la Commissione europea vorrebbe che si arrivasse a definire una serie di principi e linee guida per lo sviluppo di app per il tracciamento dei positivi. Per fare il famoso contact tracing di cui abbiamo parlato a 2024 ampiamente. E anzi, se non avete ascoltato l'intervista di un paio di settimane fa con un esempio di che cosa si potrebbe fare, beh, vi invito ad andarla a riascoltare. Mentre in Italia si sta ancora facendo una valutazione delle soluzioni tecniche, la task force che era stata designata dal Ministero dell'Innovazione ha consegnato le conclusioni al governo, che nei prossimi giorni si dovrebbe esprimere su che cosa si potrebbe fare in Italia. Il Board dei Garanti Europei della Privacy chiede che si sviluppi una unica app pan-europea. E quindi la questione si, non so se dire, complica un po'. Allora, ci sono vari progetti in Europa, non mi risulta che nessuna nazione sia partita con un'app per fare il contact tracing. In Germania attualmente c'è un'app che è stata resa disponibile per riportare sintomi, ma non per fare esattamente il contact tracing, ma anche i tedeschi ci stanno lavorando. Ma se ha senso che ci sia un'app europea, oltre che ovviamente nazionale, e che sia adottata dal maggior numero possibile di persone, potrebbero aver senso anche altre soluzioni per monitorare la popolazione, ad esempio all'interno di un'azienda. Michele Antoniazzi è il responsabile delle risorse umane di Ferrari e ci ha raccontato il progetto per ripartire, per riaprire l'azienda all'interno di Ferrari, che comprende anche un'app per fare il contact tracing. Il progetto si è articolato e si articola sostanzialmente in tre step. Una fase che definiamo protocollo, che è quella di implementare il protocollo di regolamentazione delle misure del contrasto al contenimento della diffusione del coronavirus, discusso con governo e sindacati, che noi abbiamo implementato con il supporto del professor Borioni e altri specialisti che ci hanno dato delle indicazioni per fare in modo di avere un protocollo robusto. La seconda fase, che è molto più vicina ai nostri dipendenti, che sono la forza di Ferrari, è una fase di screening dove noi, su base volontaria, nel pieno rispetto della privacy, abbiamo proposto ai nostri dipendenti di poter fare un esame sierologico da estendere in un secondo momento anche ai familiari per valutare e capire lo stato di salute in un dato momento. La terza fase sarà la fase appunto dell'app, dove chiederemo ai nostri dipendenti ed eventualmente, se saranno interessati, anche ai familiari, ma sempre su base volontaria, sempre nel pieno rispetto della privacy, di poter installare sul loro smartphone un'app che va a tracciare quelli che sono i contatti. Questo significa che non va a fare un'analisi di movimento dove ti muovi, traccia soltanto i contatti con altri cellulari che hanno la stessa app, in modo tale che se dovessimo trovarci di fronte a un caso positivo, in automatico il nostro medico competente è in grado di capire se ci sono stati dei contatti all'interno dell'azienda che ci possono portare a presumere la necessità di fare delle quarantene preventive. Questo è il funzionamento dell'app. L'app, tra le altre cose, è un'altra funzione che si fa un'autodiagnosi ogni giorno, dove si chiede: hai la febbre, hai la tosse, hai avuto problemi di mal di ossa, di malessere generale. Facendo quel check, l'app poi dà un'indicazione di sì, vai a lavorare, nessun problema, o meglio se chiami il tuo medico competente o se chiami il medico dell'azienda. Ecco, questa è una sorta di auto check-up per fare uno screening giornaliero dello stato di salute. E ovviamente immagino che la speranza sia quella che, se non proprio il 100%, ma una percentuale abbastanza vicina dei dipendenti la installi, la usi questa app. Certamente, questa è la speranza, ma chiaro, noi la proponiamo su base volontaria, nel senso che non vogliamo assolutamente obbligare nessuno, è una sorta di sperimentazione nella quale la Ferrari, tra le altre cose, è parte terza, non avrà accesso a nessunissimo dato, di conseguenza è più un tentativo di garantire una maggior sicurezza, soprattutto è il tentativo di poter mettere in pratica delle azioni correttive immediatamente, prima che magari scoppi una sorta di focolaio all'interno di qualche famiglia o all'interno dell'azienda, ovviamente. Certo, quindi lo scopo è anche quella che, sempre una speranza, diciamo, che la installino anche i familiari e anche oltre i familiari, cioè un'app che si può installare tranquillamente per tutti o è blindata, diciamo, a una platea di persone che scegliete voi? No, francamente noi non abbiamo nemmeno affrontato il discorso, nel senso che sicuramente l'app per avere un ottimo funzionamento dovrebbe essere estesa a tutte le persone che lo vogliono inserire sul loro, o meglio, upgradare sul loro mobile phone. È evidente che se su una popolazione di 50 milioni di abitanti tutti ce l'hanno, diventa facilissimo tracciare quelli che possono essere i casi di contagio, di conseguenza per natura più persone hanno l'app, più è facile poi riuscire a contenere eventuali contagi, quello sicuramente. Certo, sì, questo poi è il modello nazionale, quindi per quanto vi riguarda, diciamo che voi partite dalla popolazione aziendale, quindi dai dipendenti, i familiari, e già in questo modo comunque riuscite nell'eventualità a capire, cioè, c'è la speranza, esatto. Poi ovviamente se uno va da amici che non hanno l'app e incontra altre persone che sono fuori dal perimetro di questa applicazione, poco ci si può fare, però mica potete fare tutto. No, però col protocollo, quando mettiamo in pratica tutte le azioni di prevenzione, anche dove sono andare dagli amici, c'è la possibilità di andare ad intercettare i primi sintomi del contagio, nel senso che la misurazione della febbre, il fatto di avere sempre un medico competente a disposizione all'interno dell'azienda che è assolutamente disponibile a supportare le persone che hanno del malessere, ci permette di essere quantomeno velocemente, cioè una reazione veloce a quello che potrebbe essere un caso positivo all'interno dell'azienda. Certo, potrebbe essere un'idea quella di chiedere anche ai fornitori, che sono tanti, di Ferrari, di utilizzare questa app? Sicuramente sì. Io credo che il protocollo che Ferrari sta applicando, dal nostro punto di vista, può essere anche un supporto e può essere tranquillamente anche verificato da altre società che sono interessate. Io credo che in questo momento l'interesse comune dell'Italia è quello di poter ripartire da un punto di vista produttivo nel pieno rispetto delle regole e nel massimo della sicurezza. Se riusciamo a farlo tutti insieme, tanto di guadagnato. Questa non è che sia una gara in cui c'è chi arriva primo e tutti gli altri no. Se arriviamo tutti quanti insieme primi, riusciamo ad avere un risultato che è quello di far ripartire un intero paese. Uno dei vantaggi di questo periodo tragico che stiamo vivendo è che si possono provare gratuitamente, anche per periodi abbastanza prolungati, molte soluzioni digitali. Sono molte le aziende che hanno messo a disposizione i propri servizi gratuitamente, quindi uno può fare dei test, fare delle prove e poi alla fine decidere se il prodotto, la soluzione fa al caso proprio oppure no. Anche il gruppo 24 ore ha deciso di mettere a disposizione della pubblica amministrazione un'applicazione che si chiama App 24PA, uno strumento di comunicazione che non chiede dati ai cittadini, come ci ha spiegato Antonio Gaetani, che è responsabile dell'offerta per la pubblica amministrazione del gruppo 24 ore. Bene, App 24 ha come obiettivo ultimo quello di diventare praticamente il canale di comunicazione ufficiale della pubblica amministrazione verso il cittadino, quindi un canale e una piattaforma di informazione pensata solo per la trasmissione di dati di informazioni di servizio, praticamente i dati utili, tant'è vero che qui non prevediamo pubblicità o cose di questo genere, cioè è la pubblica amministrazione che parlerà solo ed esclusivamente con il cittadino, con i propri cittadini o con tutti quelli che comunque arriveranno nel proprio territorio, anche di lingue diverse, che è la cosa importante. Quindi è un sistema di comunicazione nazionale che servirà sostanzialmente a questo scopo. Beh, non c'è dubbio che un'unica app per tutte le pubbliche amministrazioni avrebbe senso, soprattutto per quei cittadini che risiedono in un luogo e lavorano in un altro, per chi si sposta per lavoro o anche per turismo, tutti sposti, e l'app adegua le informazioni al luogo dove ti trovi. Poi ovviamente puoi anche chiedere all'applicazione di darti le informazioni che desideri, tutti sposti magari in un'altra città e vuoi le informazioni della tua città dove risiedi, non c'è problema, tu questo lo puoi selezionare, però ha senso un'unica applicazione, così come avrebbero senso tante altre applicazioni uniche nazionali o addirittura internazionali, tanti esempi soprattutto nel mondo dei trasporti che stanno avendo molto successo, le applicazioni dei taxi, tu ti sposti in un'altra città e non hai bisogno di riscaricare l'app di quella città. I tassisti ci stanno provando a far concorrenza alle piattaforme internazionali, in alcuni casi con discreto successo, in alcuni casi con non grande successo, ma la stessa cosa vale per il trasporto pubblico. Ovviamente se io ho un'app che va bene in tutte le città, userò quell'app, infatti le applicazioni di maggiore successo sono quelle. In questo caso io continuo a dire le società di trasporto pubblico che si mettano d'accordo e si facciano un'unica app nazionale. E per le informazioni della pubblica amministrazione, ad esempio, app24pa può essere una soluzione. Un unico prodotto nazionale, tutti sposti quando potremo spostarci, visto che adesso invece non possiamo, soprattutto in questo weekend che è particolarmente blindato. Adesso cambiamo argomento, tornano a farsi largo le assurde teorie che legano il 5G con la diffusione del coronavirus. Allora, a parte che se uno volesse anche crederci dovrebbe poi spiegare come mai il virus si diffonde anche dove non è nemmeno stata fatta la gara per le frequenze 5G e quindi questa tecnologia non esiste, come in Spagna, in Francia, dove c'è qualche antenna sperimentale ma poco più. Però chi diffonde queste falsità lo fa prevalentemente per fare soldi con la pubblicità che raccoglie su internet, perché ci sono molti che abboccano e poi contribuiscono a diffondere queste stupidaggini. E visto che la fede in queste teorie si trasforma in alcuni casi in integralismo, pensate che in Gran Bretagna c'è addirittura chi ha incendiato antenne di telefonia mobile. Non aggiungo altro, eh? Però tutto ciò si inserisce in un più ampio dibattito sulla presunta pericolosità del 5G sulla salute delle persone, anche in questo caso purtroppo alimentato da teorie le più assurde. È sicuramente giusto, giustissimo che la scienza si interroghi su questo, ma al momento non è mai stato dimostrato che il 5G faccia male alla salute. E visto che questo è un tema su cui abbiamo già parlato, non è sicuramente nostra intenzione riproporre un approfondimento su questo tema, ma vale la pena riascoltare il professor Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano e preside della Facoltà di Ingegneria, che così rispondeva nella puntata del 13 dicembre, che vi invito magari a riascoltare integralmente, ma puntualmente questa è la risposta su: il 5G è pericoloso per la salute? Tenere il livello di attenzione alto è giusto, ma lo si tiene alto da più di 20 anni, da quando si è cominciato a utilizzare tecnologie di tipo radiomobile. Dire che possa esistere un problema di pericolosità del 5G in particolare è una domanda malposta, non ha nessun senso, perché dal punto di vista della potenziale pericolosità per l'uomo delle onde elettromagnetiche del 5G, in realtà la tecnologia trasmissiva non conta nulla, che sia 5G, che sia 4G, che sia TV, che sia radio, non conta nulla, conta soltanto la frequenza utilizzata e la potenza che si emette. Da questo punto di vista il 5G non si somma in senso stretto alle altre, perché i limiti che valgono in Italia e anche a livello internazionale devono essere rispettati dalla somma delle emissioni di tutte quante le sorgenti. Noi in Italia poi abbiamo anche, per ragioni storiche, anche non proprio fondate dal punto di vista scientifico, dei limiti che sono 100 volte più bassi di altri paesi europei. È difficile immaginare che ci possa essere una preoccupazione. A proposito di inquinamento elettromagnetico e possibili danni alla salute, continuo a ricordare che l'attenzione andrebbe posta non tanto verso le antenne, ma ai nostri comportamenti. Se un rischio c'è, state sicuri che è legato all'uso che facciamo del nostro smartphone. Usate l'auricolare invece di tenere attaccato all'orecchio per decine di minuti il vostro smartphone. Ricordate sempre che sul vostro smartphone c'è un'antenna con una potenza capace di raggiungere i ripetitori di telefonia mobile, che possono essere addirittura distanti chilometri. Quindi immaginate, quando tenete lo smartphone vicino al vostro orecchio, avete vicino un aggeggio che ha una potenza molto elevata. Certo, se l'antenna è molto più vicina la potenza si riduce, ma diciamo che per il principio di precauzione, anche se appunto abbiamo detto che non ci sono delle ricerche che correlano le onde elettromagnetiche, anche quelle del 5G, con la salute degli utenti, di chi utilizza questi strumenti, però dicevo, per il principio di precauzione, uno se si mette l'auricolare sicuramente non fa male. Poi ci sono effettivamente degli studi che hanno dimostrato che c'è un surriscaldamento dei tessuti, e proprio per questo motivo si consiglia di ottenere un po' lontano il telefono, non proprio attaccato all'orecchio, oppure viva voce, ma viva voce insomma ha una qualità audio che fa abbastanza schifo. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Ricordo che abbiamo una lunga e approfondita versione podcast, il nostro super podcast, tutte le nostre interviste in edizione integrale. Sul nostro sito internet, attraverso la nostra applicazione per smartphone, iOS o Android, o anche attraverso le principali piattaforme audio a partire da Spotify. E poi tutte le altre, ovviamente ce ne sono veramente tantissime per gestire i vostri podcast. Potete scrivermi a 2024@radio24.it, oppure potete scegliere Facebook, LinkedIn o Twitter. Quelle del 5G, le notizie di cui abbiamo parlato poco, le notizie false di cui abbiamo parlato poco fa, fanno parte del più ampio fenomeno che viene catalogato come fake news, che tradotto in italiano significa appunto notizie false. Ci sono vari tentativi e vari progetti nel mondo per cercare di contenere questo fenomeno, che ha visto una esplosione grazie alla diffusione dei social network. I danni che possono provocare notizie false o tendenzialmente false, perché a volte le notizie che vengono diffuse non sono palesemente false, anzi questo è un po' il trucco. Allora, i danni sono enormi, lo abbiamo visto in politica, l'elezione di Trump e la Brexit sono forse i fenomeni più eclatanti dell'uso di notizie che non sono appunto completamente false, ma che fanno pensare a certe cose rispetto ad altre. E pensate, in momenti di emergenza sanitaria, che danni possono fare notizie false. Allora, per quanto riguarda il 5G, il governo britannico ha chiesto aiuto a Facebook, YouTube, Twitter. YouTube ha risposto, ha dichiarato che smetterà di raccomandare i video che sostengono la correlazione tra 5G e Covid-19, ma non li rimuoverà dalla piattaforma. Questo da un certo punto di vista è un peccato, ma ovviamente c'è il rischio di sfociare nella censura, perché quando la stupidaggine è così grossa come quella che abbiamo descritto, cioè il 5G provoca la diffusione del coronavirus, questa è palesemente esagerata, ma in alcuni casi effettivamente si può sfociare nella censura. Io penso che le aziende come YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, potrebbero fare un po' di più, cioè potrebbero andare giù un po' più pesante, però posso capire che loro siano prudenti, anche perché appunto c'è poi anche tutto il tema pubblicitario, queste cose generano pubblicità e quindi queste aziende sono aziende private che devono anche stare attente su questo fronte. Che cosa può fare? Poi c'è ovviamente, queste aziende dicono, ma noi possiamo fare qualcosa, possiamo collaborare, poi ad un certo punto devono entrare in funzione gli organi dello Stato, che devono magari imporre la rimozione perché si è incorsi in un reato, eccetera eccetera. Allora, ma che cosa può fare, se può fare qualcosa, la tecnologia? Prendiamo l'esempio di Facebook, che da sempre è al centro di questo fenomeno. Pensate che fra Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger gli utenti sono 2,9 miliardi ogni mese, 32 milioni di persone in Italia per Facebook, praticamente tutti i possessori di smartphone per WhatsApp, quindi Facebook e tutte le applicazioni collegate hanno una responsabilità molto forte, sono veramente al centro di questo fenomeno, visti i numeri che le coinvolgono. Allora, qual è il ruolo della tecnologia per combattere o cercare di contenere il fenomeno delle fake news? Luca Colombo, country manager di Facebook in Italia. Fammi dire innanzitutto che il fact-checking viene fatto appoggiandoci e lavorando con terze parti, quindi nel caso specifico dell'Italia per WhatsApp è Facta, nel caso, se vuoi, sempre Italia è Pagella Politica per altri prodotti, però ci appoggiamo moltissimo a terze parti perché è il loro lavoro quello di svelare, se vogliamo, false notizie. Per arrivare alla tua domanda, come avviene questo? È chiaro che ad oggi la tecnologia non è in grado di interpretare e riconoscere una bufala in rete. Per questo l'approccio è molto chiaramente ibrido ed è un misto di tecnologia e supporto umano. Sempre pensando a quello che è il lavoro che dobbiamo fare con le terze parti, la tecnologia ha diversi ruoli in tutto questo. Senza entrare nel dettaglio, uno può immaginare che la quantità di informazioni legata magari ad una bufala che circolano in rete su prodotti come WhatsApp, che hanno 2 miliardi di utenti, ha una mole di informazioni o comunque di rilanci notevole. La tecnologia serve a uscire un po', isolare singole entità o singole casistiche da tantissimi casi, tantissime situazioni che chiaramente creano difficoltà nel caso di una persona di identificare quelli che sono più rilevanti o meno rilevanti. Quindi la tecnologia in questo caso è utilizzata per dare una priorità a quelli che sono i link particolarmente critici da un punto di vista di potenziali bufale. E nel fare questo si utilizzano quelle che sono le segnalazioni degli utenti, quello è il primo elemento che utilizziamo, altrettanto la valutazione, l'analisi delle fonti che sono collegate a quelle notizie è un altro elemento che la tecnologia valuta e bilancia o pesa per definire queste priorità. E da ultimo certamente anche gli account che prendono o rilanciano questi contenuti sono tutti segnali utili per... La tecnologia serve per, scalare, e quindi nel momento in cui una terza parte identifica un contenuto come falso o comunque non attendibile, la tecnologia serve a eliminare tutte quelle che possono essere successive duplicazioni. Quindi se una notizia viene identificata come falsa e questa è già stata condivisa e rilanciata in n altre piattaforme, sempre Facebook in questo caso, ma in n altre forme, chiaramente la tecnologia aiuta a rimuovere quelle che sono i duplicati. Da ultimo, se vuoi, come la tecnologia aiuta, in realtà è come l'essere umano, come le persone possono aiutare la tecnologia, lavorando con le terze parti, noi creando tutte le casistiche che vengono rilevate, aiutiamo, se vuoi, machine learning piuttosto che intelligenza artificiale a imparare quello che sono potenziali tecniche per intercettare poi eventuali altri casi di disinformazione. A proposito di terze parti, c'è una sperimentazione iniziata pochi giorni fa che riguarda WhatsApp, curata da Pagella Politica. Il direttore è Giovanni Zagni. Sì, noi abbiamo lanciato pochi giorni fa, il 2 aprile, un nuovo sito che ha un progetto, una sorta di spin-off, di Pagella Politica, che si chiama Facta, e insieme al lancio di questo sito abbiamo anche avviato un servizio di segnalazioni rivolto agli utenti tramite WhatsApp. Questo servizio è stato lanciato in collaborazione, in partnership, con Facebook e quindi WhatsApp, come ricordavi giustamente tu, insieme al lancio del sito. Funziona così, c'è un numero che è indicato con grande evidenza anche sulla nostra home page, al quale chiunque può mandare una segnalazione di una notizia che ha trovato magari su una chat oppure anche da altre parti su internet. Può inviarla a questo numero e riceve un messaggio in cui gli si dice dove, anzitutto per prima cosa, la segnalazione è stata presa in carico da noi e se la verificheremo poi troverà l'articolo sul nostro sito. Naturalmente per questioni di forza lavoro non possiamo mettersi a fare conversazioni uno a uno, singole, con tutte le persone che ci inviano una segnalazione. Quindi abbiamo automatizzato una risposta che fornisce intanto a chi ha fatto la segnalazione alcune indicazioni su dove può trovare, come dire, i nostri articoli, ad esempio tutti gli articoli di bufale che riguardano il Covid-19. Inoltre, se l'utente ci manda il consenso per la privacy scrivendo acconsento e poi scrive news, ogni sera intorno alle tra le 6 e le 7 di solito riceve un messaggio che noi facciamo tramite una lista broadcast con cui ha la segnalazione delle 10 bufale, delle 9-10 a seconda dei giorni, bufale di cui ci siamo occupati quel giorno lì, e in quel modo di solito siamo in grado di coprire tutte le bufale più diffuse in quel momento, più virali, ecco, diciamo, perché la disinformazione e le bufale solitamente arrivano in ondate, cioè un giorno si parla tutti della stessa cosa, il giorno dopo il messaggio virale è un altro, alcune è vero sono ricorrenti, ma insomma quelle che hanno più successo di solito sono quelle più arrivano tutte insieme in un giorno solo, ecco. Questo lavoro è fatto da persone umane? Sì, il lavoro di verifica è al 100% umano. Visto che voi avete una esperienza molto approfondita e molto lunga, quanto può essere automatizzato? Questo, diciamo, è un po' la domanda da 100 milioni, nel senso che diversi progetti di fact-checking intorno al mondo, penso ad esempio a un progetto molto forte nel Regno Unito che si chiama Full Fact, hanno annunciato l'automatizzazione, che diciamo l'automatizzazione del fact-checking è proprio dietro l'angolo, è una di quelle classiche cose che arriverà, si dice sempre arriverà domani, poi però finora non lo si è visto. Alcuni pensano che sia effettivamente possibile tramite l'intelligenza artificiale riconoscere subito se un testo ha quelle due o tre informazioni che sono già state verificate, attaccarci un articolo di fact-checking e boom, buona lì. In realtà questa cosa di fatto a questo livello non si è ancora mai verificata, quindi il lavoro di fact-checking, di verifica, al momento è sempre di persone che utilizzano degli strumenti, dei programmi, dei siti che magari ti permettono di dire se un'immagine è stata modificata, se alcune di queste cose, ovviamente di questi strumenti tecnici, però di fatto la verifica va ancora fatta direi al 100% manualmente. Ecco. Beh, quindi stiamo capendo che le macchine fanno ancora molta fatica a sostituire gli uomini anche in cose dove potrebbero esserci molto d'aiuto, come la disinformazione, soprattutto di fronte a numeri così elevati. Vi abbiamo ricordato poco fa quando abbiamo parlato di Facebook, se ci fossero delle tecnologie affidabili che fossero in grado di capire se una cosa è falsa oppure no, beh, sarebbe un lavoro molto, molto utile. Certo, le persone di pagella politica mi odierebbero, perché direbbero ma come, ci ruberebbero il lavoro le macchine e i software automatici, però viste le grandi dimensioni e soprattutto la velocità con cui queste notizie girano, allora, pensate il fenomeno dei deepfake, cioè i video creati grazie a software di intelligenza artificiale che mese dopo mese sono sempre più verosimili. Luisa Verdoliva è una professoressa associata presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università Federico II di Napoli, che da anni si occupa di immagini e di video. Stiamo lavorando sulla manipolazione di immagini e video già da circa 10 anni. In realtà sui deepfake invece da 2 anni circa. Siamo coinvolti sì in un progetto abbastanza grande che è Medifor, è un progetto finanziato da DARPA, la difesa americana, e diciamo che era appunto interessata a cercare a sviluppare tecniche per scoprire manipolazioni in immagini o video. Abbiamo anche una collaborazione con l'Università di Monaco proprio sul tema dei deepfake, quindi ci lavoriamo abbastanza intensamente, soprattutto in quest'ultimo periodo. E che cosa sono in grado di fare questi algoritmi, questi software? Allora, ci tengo a precisare che queste non sono tecniche con cui noi vogliamo etichettare un video dicendo questo è vero, questo è falso. Sono strumenti di supporto che possono essere di aiuto in un'analisi, diciamo, fino a poco tempo fa si utilizzavano soprattutto in analisi di tipo investigativo, in cui in qualche modo, diciamo, si voleva cercare di comprendere che cosa stava succedendo, appunto, quando erano coinvolte immagini digitali, soprattutto immagini. E ci sono strumenti che sono molto potenti, ma hanno i loro limiti. Quindi è chiaro che bisogna utilizzarli bene, conoscendo le potenzialità, ma anche i limiti di questi approcci. Io tipicamente, per esempio, se analizzo un'immagine digitale o un video, non applico mai una singola tecnica, ma cerco per esempio di capire se più approcci danno un risultato simile, magari scoprire se ci sono altre fonti. Insomma, l'analisi deve essere abbastanza ricca, altrimenti si rischia comunque di cadere in errore, e comunque in generale non si deve mai pensare che sono strumenti perfetti, perché non lo sono. Quanto può essere automatizzata questa attività? Perché se noi parliamo di grandi social network dove girano già oggi, ma penso al futuro gireranno tantissime immagini deepfake create in maniera magari automatica, senza che ci siano uomini dietro che preparano video falsi, sarebbe molto utile avere dei sistemi automatici che riescono a riconoscere tutto ciò. Che cosa si può fare? Comprendo. Allora, diciamo che secondo me in questo momento una fase molto piccola può essere automatizzata, nel senso che c'è ancora bisogno molto dell'analisi umana finale, che dallo studio dell'output di diversi algoritmi o di diversi tipi di analisi può magari appunto cercare di comprendere cosa sta succedendo. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso parliamo di blockchain. Perché parliamo di blockchain? Allora, perché qualcuno degli ultimi giorni ha tirato fuori blockchain per varie cose, sia per il tema delle fake news o della garanzia che un'informazione sia buona, di buona qualità, genuina, ma addirittura, e qui c'è veramente da mettersi le mani nei capelli, in relazione a Covid-19, al coronavirus, non si capisce per far cosa. Comunque, visto che la parola blockchain, la tecnologia blockchain è tornata un po' di moda negli ultimi tempi, è bene mettere i puntini sulle i, perché alcuni hanno definito blockchain come una delle più innovative tecnologie degli ultimi anni, e molto probabilmente lo è, e molti ritengono che blockchain rappresenti il futuro di molte industrie, il substrato con cui si trasformeranno molte industrie. Però per parlare di questo e per mettere i puntini sulle i, io ho invitato uno dei più importanti esperti a livello europeo e non esagero a dire anche a livello mondiale di Bitcoin e blockchain, Giacomo Zucco, che lavora e insegna in B-Academy, è un consulente e un formatore proprio su questi temi. Bentornato a 2024. Grazie a voi. Partiamo da un concetto, visto che stiamo parlando di argomenti che possono essere semplificati ma sono in parte intrinsecamente complessi. Vale la pena di ribadire e ridire, rispiegare che cosa intendiamo e che cosa significa blockchain. Chiamiamo un blockchain in senso stretto una tecnica che permette di fare sostanzialmente tre cose. La prima è banale, aggregare una serie di dati in quello che chiamiamo un blocco, e non c'è niente di nuovo. Poi collegare questi blocchi in ordine cronologico verificabile da chiunque indipendentemente. Si usa la crittografia, delle cose che si chiamano impronte crittografiche, per far sì che sia possibile verificare l'ordine con cui questi blocchi sono messi. La terza cosa è la più importante: creare un sistema che incentivi tutti gli attori di un determinato sistema a rimanere sulla stessa storia, sullo stesso ordine cronologico consistente, in modo progressivamente immutabile. Quindi fare in modo che chi opera con questa struttura dati sia incentivato a non a disperdersi su storie alternative, ma di rimanere su una timeline, su una cronologia unica, univoca, convergente per tutti e immutabile, nel senso che chi volesse da solo mutare il passato si ritroverebbe escluso dalla storia condivisa degli altri. Cioè dovrebbe mettersi d'accordo con tutto il sistema, con tutti gli attori. Precisamente, e c'è un disincentivo economico a farlo. Questa struttura dati nasce con Bitcoin, ma poi ovviamente il meme si espande in altri settori. Senti, possiamo, semplificando ulteriormente, definirla come un grande archivio globale che sta su internet? Direi di no, l'accento non è tanto sull'archivio, infatti la blockchain in realtà non è neanche il database che questi prodotti, come appunto come il protocollo Bitcoin, usano per tenere le transazioni, ma è soltanto una specie di indice che le ordina cronologicamente in modo univoco. In realtà, chiaramente, come dicevamo, il termine poi è stato usato in senso lato e qualcuno la usa nell'industria anche per indicare archivi decentralizzati, che però sono di per sé un ambito diverso dal termine usato in senso stretto. E qui vengo ad uno dei temi cardine di questi mesi, o meglio di questi anni in cui stiamo commentando e assistendo allo sviluppo, al tentativo di sviluppare blockchain. Molti chiamano blockchain cose che non sono blockchain e fanno riferimento a tecnologie che hanno a che fare con la blockchain ma non sono strettamente blockchain. Questo è uno degli elementi cardine, giusto? Questo è un elemento assolutamente chiave per capire quando si legge di blockchain o si sente parlare di blockchain. Ci sono due estremi di utilizzo del termine. Uno è quello che ho usato io all'inizio della nostra conversazione, il termine in senso stretto. Cosa fa una struttura dati chiamata blockchain, per esempio nel protocollo che ha lanciato l'idea, che è Bitcoin? Ed è una funzione molto specifica in realtà, molto ridotta, molto innovativa, ma molto specifica. E poi c'è invece un uso che va ad estendersi in maniera sempre meno focalizzata e sempre meno determinata a coprire una serie di cose, alcune delle quali vengono inserite nel termine perché magari sono presenti nei sistemi che usano anche blockchain. Per esempio Bitcoin utilizza blockchain e firma digitale. Allora qualunque prodotto o protocollo che usi firma digitale può essere per esteso chiamato blockchain. Le ragioni per farlo a questo punto sconfinano un po' tra il marketing, la politica e la scelta comunicativa. E chiaramente non c'è un utilizzo giusto e sbagliato, le parole sono parole. È importante fare una distinzione che è questa. L'utilizzo molto lasso del termine va bene ed è sicuramente applicabile a tantissimi campi, ma con meno potenziale innovativo. Quando invece utilizzo il termine in senso stretto, le applicazioni sono meno, ma le affermazioni che faccio, tipo immutabilità, tecnologia nuova e disruptive, sono vere e accurate. Quando invece uso immutabile, innovativo, disruptive su una cosa che magari esiste da 30 anni, come la tecnologia di firma digitale a chiave asimmetrica, chiaramente il problema è non cercare di avere la botte piena e la moglie ubriaca. E molto probabilmente non so dare una percentuale, il 70, 80, 90, 99% delle cose che vengono definite blockchain non sono esattamente blockchain e quindi non sono esattamente così dirompenti come molti le vogliono far sembrare? Precisamente, non sono così dirompenti e soprattutto non hanno quelle caratteristiche. Faccio l'esempio dell'immutabilità. Una struttura dati che si chiama blockchain sul mio computer, che gira soltanto sul mio computer, è perfettamente mutabile, perché anche se è la stessa struttura dati che dentro Bitcoin garantisce un'immutabilità del registro, nel mio computer la posso mutare come voglio. Quindi la struttura dati in sé non ha caratteristiche. Se utilizzata in questi sistemi porta a certe conclusioni, ma molto spesso non ha assolutamente questi tipi di caratteristiche. Certo, soprattutto in quelle blockchain dove ci sono pochi attori e non c'è così tanta decentralizzazione. Precisamente, decentralizzazione che è un concetto di controllo, un concetto spesso si confonde decentralizzazione con distribuzione. Decentralizzazione non vuol dire dove sono i computer che fanno girare un sistema. I computer di Google sono distribuiti in tutto il mondo, ma sono centralizzati dal punto di vista del controllo. Non bisogna fidarsi di una macchina Google perché c'è una sorta di gerarchia che determina il tutto. Sistemi veramente decentralizzati, per esempio Git, Bitcoin e altri di questo tipo, sono effettivamente invece campi di applicazione diversi. Quando parliamo di blockchain, facciamo necessariamente riferimento a quella tecnologia che è stata sviluppata e mantiene tutto il sistema dei Bitcoin, o in realtà ci sono tanti tipi di blockchain per tanti tipi di usi diversi? Oltre ai tanti tipi di uso della parola, come abbiamo detto prima, ci sono anche tante diverse implementazioni dello stesso concetto in senso stretto. È chiaro che anche lì bisogna fare dei distinguo. Per esempio, sulla rete Bitcoin, l'immutabilità di questa catena cronologica è garantita da incentivi economici molto forti dovuti dal volume di questa criptovaluta, che sono economicamente importanti e creano dei costi e opportunità per gli operatori che tendono a mantenere tutti sulla stessa storia. Invece è chiaro che esperimenti più piccoli, innovativi, magari lanciati non da un anonimo hacker sconosciuto come Bitcoin, ma magari lanciati e gestiti da un team con le facce su un sito e un'entità legale incorporata in Svizzera, ecco, questi tipi di blockchain hanno una decentralizzazione che è chiaramente molto minore e uno si può chiedere se possano garantire appunto lo stesso tipo di immutabilità, e in genere la risposta è no. Quali sono i vantaggi nell'uso della blockchain? Nel senso stretto, quella i vantaggi, con la B maiuscola, con la B maiuscola, certo. Insomma, nel senso stretto, i vantaggi dell'uso della blockchain sono la possibilità di poter fare a meno di ogni parte centrale per definire la cronologia. È chiaro che nel caso monetario questo vantaggio è fondamentale, perché quando trasferiamo del valore, dei soldi per esempio, dobbiamo essere sicuri non soltanto che il mio trasferimento sia vero, e per verificare questo controllo la firma digitale, ma anche che non sia successivo a un altro trasferimento, ovvero io ti passo un contratto di possesso della mia casa. Tu non devi solo sapere che la mia firma è valida, ma che io non ho fatto un contratto identico che ho poi consegnato a qualcuno il mese prima. È la stessa logica delle pubblicazioni prematrimoniali. Occorre che tutti sappiano che una certa transazione è avvenuta e che questa cosa sia pubblica e consolidata prima di potermi fidare che non è stata spesa due volte una stessa parola. Questo ovviamente ha senso nei soldi, ma può aver senso anche in altri oggetti scarsi digitali rappresentabili digitalmente, come titoli di credito, azioni, obbligazioni, opere d'arte collezionabili in digitale. Quindi la scarsità, il tentativo di passare proprietà in modo digitale, è sicuramente un'applicazione della tecnologia blockchain. Ce ne possono essere anche altre che hanno tutte un po' a che fare col tempo. Per esempio, dare un timestamp, una marca temporale a un dato, a un documento. Quindi le applicazioni concrete della blockchain, quella sempre con la B maiuscola, con tutte le caratteristiche che tu ci hai ricordato, sono poche, molte. È vero quello che molti dicono, questa è la tecnologia che sta veramente rivoluzionando, o meglio rivoluzionerà tanti settori? Secondo me sono poche, nel senso che appunto si contano veramente sulle dita di una mano. Trasferimento di asset digitali scarsi, perché la blockchain impedisce la doppia spesa, e marca temporale, diciamo così, sui documenti in forma decentralizzata. Il secondo è un caso d'uso molto buono, anche economico, scalabile. Il vero problema è che ci sono un sacco di alternative, molti sistemi, molte aziende, molti consorzi non hanno bisogno di decentralizzare la marca temporale, possono benissimo affidarsi a una marca temporale centrale perché sono magari regolamentate, assicurate. Quindi il caso d'uso nelle criptovalute è fondamentale, soprattutto in Bitcoin, perché si tratta di un sistema che deve sopravvivere in assenza di un agente centrale, in assenza di un punto di fallimento centrale. Per tutti gli altri casi d'uso è un po' più neutro. Che impatto possa avere dipende. Direttamente la tecnologia, a mio parere, non ha un impatto molto esteso al di fuori di questi campi stretti, ma questi campi stretti possono avere indirettamente degli impatti economici anche molto disruptive. Se Bitcoin diventasse veramente una valuta globale, non inflazionabile, che rende impossibile politiche monetarie o certe politiche di censura finanziaria, le conseguenze sociali e quindi anche finanziarie e tecnologiche ci sarebbero, ma molto indirette. Certo. Ci sono degli evidenti svantaggi o difficoltà nell'applicazione della blockchain? Sì, ci sono, nel senso che quello che si guadagna in immutabilità e, se vogliamo, assenza di un punto centrale, si perde in efficienza. La blockchain è un sistema di coordinamento cronologico assolutamente lento, costoso e inefficiente. Inoltre si perdono anche vantaggi di privacy. Sistemi centralizzati di pagamento, per esempio come PayPal, hanno delle informazioni che stanno chiuse in un server di PayPal che, se ben controllato e ben protetto, garantisce una certa privacy. Invece sistemi come Bitcoin, quando e nella misura in cui debbono usare la tecnologia blockchain, devono necessariamente pubblicare le transazioni di tutti verso tutti. Questo viene mitigato dal fatto che non ci sono nomi e cognomi in questi sistemi, sono sistemi cifrati, diciamo così, nel senso innumerati, ma in realtà, rispetto a un sistema centralizzato, la blockchain vuol dire mettere in piazza ogni passaggio di stato del sistema. Queste difficoltà e questi problemi, secondo te, potranno essere risolti nel tempo con lo sviluppo di varie tecnologie, o ci sono alcune cose che non cambiano. Che ne so, adesso cambiando scenario, la velocità della luce, almeno rispetto alle conoscenze che noi abbiamo oggi, non è superabile, no? Per le leggi della fisica. In questo caso stiamo parlando di tutta una serie di difficoltà, di problemi che potrebbero essere risolti se risolviamo alcuni problemi tecnologici o no? Sì, ma non necessariamente agendo sulla blockchain in quanto tale, che come dicevi tu ha dei limiti fondamentali quasi fisici. Il tempo di latenza tra tutta la rete, dovendo aggiornare tutti quanti i nodi della rete, la latenza della velocità della luce non è risolvibile fisicamente, piuttosto che qualunque sia la tecnologia che usiamo per storare e trasmettere la blockchain, un sistema in cui tutti i nodi registrano tutte le transazioni, le tengono per sempre, che è di fatto la blockchain, perché deve essere indipendentemente verificabile, è un sistema chiaramente non scalabile. Possiamo farlo scalare meglio, ma non sarà mai scalabile. La soluzione avviene nell'utilizzo layerizzato a strati, ovvero la situazione in cui la blockchain viene usata il meno possibile per le cose a cui veramente serve, come un sistema, diciamo così, di settlement, e al di sopra di questo una serie di piccoli sistemi alternativi possono essere usati. Per esempio in Bitcoin si usa quello che si chiama Lightning Network per mandare transazioni istantanee e a costo praticamente zero, ma la cosa paradossale è che Lightning Network non è un'innovazione blockchain, è un'innovazione che serve a non usare la blockchain quando possiamo non usarla. Certo. E quindi da questo punto di vista queste tecnologie alternative all'uso della blockchain potrebbero svilupparsi nei prossimi anni? Assolutamente sì, ed è vero in questo caso che c'è una reazione, diciamo così, a cascata che parte da queste applicazioni, che arriva anche oltre. Per esempio il problema di privacy di cui parlavamo prima, la blockchain essendo un sistema in cui tutti registrano tutto non è privata. Allora alcune criptovalute, per esempio Monero, hanno introdotto delle innovazioni in cui questi dati sono sì condivisi ma criptati in maniera molto particolare, e queste innovazioni, per esempio sulle cosiddette ZK-SNARK, ovvero prove a zero knowledge, sono tutte innovazioni che in realtà possono avere ricadute anche in campi centralizzati. Per esempio ci potrebbe essere una compagnia assicurativa che può valutare il premio che il cliente deve pagare senza leggere in realtà i dati sensibili della salute, criptando le informazioni e facendo richieste sul blob criptato invece che sulle informazioni aperte. Sì. Questa cosa non è blockchain, ma l'innovazione su questa cosa ha fatto più passi da gigante negli ultimi 2 anni a causa delle criptovalute che la usano e degli incentivi economici che ci stanno dietro di quanto avesse fatto nei precedenti 20 anni. Sì, qui arriviamo ad un'ulteriore domanda che vorrei farti. Tu ci hai detto molte delle tecnologie che vengono utilizzate vengono annunciate e vengono catalogate sotto il nome di blockchain, anche se non sono blockchain. In alcuni casi, facciamo un esempio, viene utilizzata crittografia e si dice sto usando la blockchain, in realtà si sta usando solo la crittografia. Ma perché oggi mi sembra molte di queste tecnologie vengono utilizzate molto più che anni fa, anche quando siamo di fronte a tecnologie che conosciamo da decenni? In parte potrebbe essere perché sono emersi dei problemi, soprattutto riguardanti la privacy, che erano molto sottovalutati nei decenni scorsi. Quindi sistemi centralizzati in cui un operatore ha accesso a tutti i dati erano in realtà una soluzione comoda, efficiente dal punto di vista tecnico, ma pericolosa dal punto di vista sociale, problematica dal punto di vista politico, che solo oggi con gli scandali Facebook, con i tentativi per esempio di controllo sulla popolazione in Cina, cominciano a produrre dei problemi, dei concern dal punto di vista del dibattito pubblico. Quindi la crittografia oggi diventa qualcosa che conoscevamo da decenni, ma solo adesso ci accorgiamo che potrebbe essere necessario per evitare degli scenari veramente problematici. L'altro aspetto può essere senz'altro che invece lo spunto che le criptovalute hanno creato e l'incentivo economico che hanno creato, essendo state delle grandi bolle che hanno permesso anche di fare e perdere molti soldi, questa volatilità di mercato ha attratto capitali e attenzioni che la ricerca pura non attrae. Immaginare un professore universitario che lavora sulla crittografia applicata in cambio di un grant universitario, o immaginare invece un developer che pensa di raccogliere milioni sulla sua criptovaluta, anche se il secondo scenario ha dei problemi etico-economici non indifferenti, di sicuro la quantità di attenzione e di incentivo nel secondo caso è maggiore. Secondo te in che fase tutte le tecnologie hanno una fase cosiddetta di hype, cioè di grandissima attenzione in maniera in alcuni casi esagerata, e lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto anche per la blockchain. Annunci tutti i mesi, tutte le settimane, di gente che dice: ah, con la blockchain rivoluzioneremo questo. Poi, come tu dici, è vero, bisogna stare attenti a guardare bene dentro le cose, perché non tutto è blockchain vero, anzi molto poco è vera blockchain. Ma in che fase siamo dell'hype? Distinguerei geograficamente, nel senso di ambito. Negli Stati Uniti, diciamo così, nella Silicon Valley, nel cuore dell'innovazione tecnologica, siamo in una fase ormai tarda dell'hype. Se inserite il termine blockchain a caso nel vostro pitch startup nel 2017, la vostra evaluation sale. Se la inserite ora, venite guardati come, giustamente, con sospetto. Persone che cavalcano hype un po' a caso. Questa cosa è vera negli Stati Uniti, sia diciamo nell'ambiente Silicon Valley che in quello Wall Street New Yorkese. L'hype è molto finito anche lì. Ci sono stati già articoli su testate famose di portata nazionale negli Stati Uniti sulla fine della blockchain, dove sono finiti questi casi d'uso, perché su tutti questi proof of concept non è uscito niente, con anche numeri molto impietosi sul tasso di successo di queste iniziative. Quindi c'è una consapevolezza. Direi che in Europa e soprattutto in Italia, come sempre, c'è un piccolo lag culturale, per cui le buzzword magari arrivano un po' dopo, ma sopravvivono anche un po' di più. Quindi potremmo aspettarci in realtà di essere un po' indietro in questo ciclo delle hype, in Italia particolarmente. Mettiti nei panni di giornalisti, ma anche aziende, che sono bersagliate ogni mese molto spesso da proposte commerciali di tecnologie che vengono bollinate, hanno il bollino blockchain. E torniamo a quello che tu dicevi. Guardiamoci bene dentro, perché molto poco è veramente blockchain e molto altro è qualche tecnologia che fa riferimento al blockchain, ma non è blockchain. Come si fa a difendersi da queste proposte affascinanti, futuribili, che sembrano destinate a rivoluzionare molte cose? La chiave, a mio parere, è distinguere il marketing dal contenuto tecnico. Che non è facile. Non è facile, chiaramente. Fare la tara, il che vuol dire che se il nostro consulente ci sta vendendo qualcosa e ce lo vende come blockchain perché pensa di cavalcare un hype, non è detto, attenzione, che la soluzione che ci propone di firma digitale, di database distribuito, sia una brutta soluzione. Magari c'è una società che fa GDPR benissimo, perché è una cosa importante, sente il termine blockchain, crede che sia in qualche modo collegato e lo usa, non c'entra assolutamente niente, ma il suo prodotto GDPR è fantastico. Quindi dobbiamo fare la tara, su una tara severa, un senso critico severo, sull'utilizzo del termine, magari fatto per motivi di marketing, sulle aspettative, fare management delle aspettative eccessive che questo termine ha portato, quindi immutabilità, taglio di tutti i costi, insomma la blockchain non è una polvere magica che risolve tutto, e poi chiedere ai nostri tecnici, ai nostri, a chi ci aiuta nelle valutazioni di merito, come faremo su qualsiasi altro software, su qualsiasi tecnologia, su qualsiasi protocollo, di valutare effettivamente quanto aiuta il nostro business. Spesso un prodotto che si chiama blockchain per motivi di marketing non è necessariamente un prodotto non utile al business. Anzi, siccome le applicazioni della vera tecnologia blockchain in senso stretto sono limitate, molto spesso noi non vogliamo veramente usare blockchain, solo che il nostro consulente non ce lo può dire per paura di perdere l'effetto novità e l'effetto buzzword. Certo, se guardiamo al futuro, certo, nessuno può fare previsioni, c'è un detto famoso, nessuno può fare previsioni, tantomeno sul futuro, però giusto per avere una prospettiva, tu pensi che le applicazioni che ci dicevi che usano solo blockchain e tutti gli elementi della blockchain come tu ce li hai definiti all'inizio sono molto poche? Potrebbero diventare molte di più, quindi hanno ragione alcuni che dicono questa è una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria? La tecnologia, come dicevo, potrebbe essere rivoluzionaria per le implicazioni più che in se stessa. Se le implicazioni, per esempio finanziarie, economiche e monetarie, diventassero quelle che alcuni sospettano potrebbero diventare, appunto un bitcoin, moneta globale, cose di questo tipo, allora ci potrebbe essere un effetto, diciamo così, di standardizzazione, un effetto di infrastruttura. Che cosa intendo dire? Intendo dire che se io ho due modi di fare timestamping, uno è in maniera centralizzata e uno in maniera decentralizzata, oggi quasi sempre sceglierò per comodità quello centralizzato. Ma se un domani l'utilizzo del secondo modo diventa ubiquo, diventa diffuso ovunque, facile, standard, facciamo un altro esempio. Io devo avere un portale per la mia azienda, per i miei documenti. Se sono nel 1995, io non uso internet, che è una rete nuova, aperta, strana, che non è focalizzata alle aziende, ma è focalizzata alle comunicazioni tra aziende. Uso un mainframe, che è la soluzione fondamentale, chiara, efficiente, semplice. Quando però tutto il mondo si è spostato su internet e quindi tutti i tool, le librerie, i software, le abitudini degli utenti, le infrastrutture sono su internet, è chiaro che a me serve, io preferisco a quel punto utilizzare l'infrastruttura che già c'è. In questo senso, se gran parte dell'economia globale di scambio si spostasse, per esempio l'e-commerce si spostasse su cose come Bitcoin, ecco allora che per un sistema chiuso, anche aziendale, bancario, anche di banca centrale, adattarsi alla tecnologia per rimanere più vicini vuol dire poter riutilizzare codebase, riutilizzare standard, riutilizzare interfacce. La tecnologia blockchain è qui con noi destinata a rimanere o potrebbe anche succedere che ad un certo punto non ne parliamo più e non viene più utilizzata perché magari tutta la rete Bitcoin collassa e non esiste più? Assolutamente, o collassa è oppure possibile. È senz'altro possibile, non è una cosa che si può escludere. Ogni anno che passa sembra più improbabile perché questa tecnologia acquisisce sempre di più una sua storia, una sua sorta di garanzia. Però diciamo che è assolutamente ancora un esperimento in corso, non solo un esperimento come Bitcoin, che è il principale caso d'uso della blockchain, potrebbe fallire, ma addirittura potrebbe magari spostarsi su altre strutture tecnologiche, quindi potrebbe paradossalmente funzionare l'esperimento monetario usando strumenti di antidoppia spesa diversi dalla blockchain stessa. Ti faccio un'ultima domanda su quello che sta succedendo nel mondo. Prima tu hai fatto riferimento già ad alcune cose, Stati Uniti, Europa. Se guardiamo alle sperimentazioni, ai progetti, sappiamo che ci sono comunque sia molti progetti che riguardano la blockchain per cercare di capire dove può essere utilizzata, magari per aumentare i casi d'uso rispetto a quei pochi che esistono oggi. Dove vedi fermento interessante, diciamo, poco marketing e molta sostanza? Dunque, molta sostanza, anche se utilizzo appunto molto traslato del termine, per esempio è l'effetto che questa buzzword può avere sull'utilizzo di sistemi open source, di sistemi comunque auditabili dall'esterno. Che cosa intendo dire? Che una banca centrale che voglia sperimentare su blockchain non fa niente di molto innovativo. Le banche centrali già emettono denaro sostanzialmente in digitale per la grande maggioranza. L'euro è principalmente digitale come base monetaria. La vera differenza è che ad oggi i sistemi che vengono usati sono sistemi chiusi, non auditabili, non trasparenti, non utilizzano best practices aperte nel mercato del software. Invece le blockchain hanno ereditato, anche qui è una sorta di passaggio di associazione di termini. Bitcoin è un fenomeno open source, usa una blockchain, ogni progetto blockchain tende ad avere componenti più o meno open. Questo potrebbe essere un effetto positivo e sostanziale della buzzword, ovvero di portare un'accettazione anche istituzionale della verificabilità e auditabilità esterna dei sistemi finanziari. E c'è qualcuno che lo sta facendo in qualche paese? Beh, diciamo che quasi tutti gli esperimenti che si sono visti, anche se sono molto stretti nell'idea del controllo, quindi non vogliono che ci siano entità esterne che partecipano, validano, tutti gli elementi del sistema, utenti, validatori, diventano chiusi, controllati, autorizzati, ma spesso la caratteristica del software open source, del protocollo spiegato al pubblico con un white paper, rimane presente. Anche oggi si parla ancora di un futuro white paper, è un termine tecnico che è quasi entrato nel linguaggio politico. Quindi un concetto di apertura e verificabilità esterna che sembra abbastanza sfondare anche nel mondo istituzionale. Ma c'è qualche istituzione nel mondo, che ne so, in Svizzera, in Europa, negli Stati Uniti? Banca Centrale Svizzera, Banca Centrale Europea, Federal Reserve, quasi tutte le banche centrali hanno dei piccoli progetti a metà tra la dichiarazione e la vera campagna, e poi appunto Libra in nessun modo è strettamente una blockchain, ma anni fa che una grande multinazionale facesse lo sviluppo del proprio sistema di pagamento d'elezione in maniera open su GitHub, quindi dove tutti gli hacker possono andare a controllare quello che stanno facendo, a verificare, a copiare pezzi, è una cosa che di per sé è rilevante. Cioè, questo è sicuramente interessante. L'Asia? L'Asia diciamo che è un po' più eterogenea. Il Giappone per esempio ha avuto una fase di grande avanzamento e diciamo che insieme alla Svizzera è uno dei paesi più avanzati per quanto riguarda Bitcoin e quindi anche tecnologie blockchain. La Cina è molto contrastata perché ha avuto al suo interno la concentrazione del mining, che è questo fenomeno interno a Bitcoin dove alcune diciamo, macchine si mettono a costruire i blocchi della blockchain, è molto, molto di esse concentrata in Cina. Quindi Ancora oggi. Che in passato, ma ancora oggi, per motivi di vario tipo, energetici, produzione degli hardware direttamente in loco e via dicendo. D'altra parte però, avendo un controllo sulle transazioni finanziarie molto più stretto e serrato, avendo subito delle bolle economiche di proporzioni notevolissime sul settore, la Cina è diventata un contesto molto più chiuso a riguardo e quindi non ci sono i mercati del cambio di Bitcoin o di altre criptovalute, altcoin, non sono più liberi in Cina, c'è sempre un po' di contrasto. La cosa divertente è che ogni 6 mesi circa esce una notizia con scritto la Cina ha vietato il Bitcoin, solo che succede dal 2012 ogni 6 mesi. In realtà è sempre un po' un rapporto di odio e amore in cui si cerca di aprire un po' e di chiudere un pochettino. Voi insegnate a B-Academy questi concetti, ovviamente scendete più in profondità. Quando alla fine del corso molti rimangono delusi? Sì, assolutamente. Diciamo che ci sono diversi tipi di corsi, quelli per programmatori, di persone che vogliono prendere in mano questi protocolli e creare cose, ovviamente hanno un risultato finale positivo, ma a volte i corsi orientati specie al B2B, al business, in cui l'amministratore delegato ha mandati suoi aspettandosi la polvere magica che risolve tutto, diciamo che sicuramente c'è un piccolo shock culturale nel capire che cosa stava dietro la buzzword. Non necessariamente una delusione, nel senso che nel migliore dei casi comunque si risparmia soldi e quindi non si fa un progetto blockchain perché era inutile e ogni soldo risparmiato è un soldo guadagnato. E in altri casi ancora più ottimisti c'è veramente un caso d'uso da perseguire. So che non è veramente legato al termine blockchain, ma so che è utile e l'ho conosciuto grazie alla buzzword. Se io per esempio grazie alla buzzword scopro cos'è una firma digitale, perché mi è utile, cos'è una ridondanza dei database distribuita geograficamente perché è utile, cos'è la crittografia asimmetrica o la crittografia zero knowledge perché è utile, allora senz'altro porto a casa qualcosa che non è veramente blockchain, ma che magari cambia il business. Certo, non lo cambia con l'aspettativa della nuova buzzword magica, lo cambia con un grosso lavoro molto lento e doloroso, ma l'happy end esiste, diciamo. Grazie a Giacomo Zucco per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. A voi, grazie. Bravissimo Giacomo Zucco. E grazie a voi che avete ascoltato fino a qui questa puntata di 2024. È un po' una specie di sorpresa nell'uovo di Pasqua questa chiacchierata che abbiamo fatto. Devo dire, abbiamo fatto un paio di mesi fa, era da un po' di tempo che, però visto che ultimamente sono uscite un po' come scintilla alcune affermazioni sulla blockchain, ho detto questo è il momento per mandare in onda questa puntata. Diciamo che aspettavo sempre che si tornasse in tempo di pace, ma visto che qui il lockdown, come molti lo chiamano, questo blocco continuerà ancora per molto tempo, inutile aspettare. Grazie a tutti, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, ci risentiamo la prossima settimana.